stazione con gli adattatori, proprio in macchina, però sai, Piazza dei Segni c'era ciao, mi diritto di divertimento, nata lì, devo chiudere, ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo, te lo saluto, dai.